e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Bentrovati a tutti, noi siamo qua proprio come delle soldatine a lavorare. Tra l'altro il termine soldato proprio in questa giornata in cui festeggiamo una ricorrenza importante, forse anche quello più appropriato. Siamo in diretta in questa giornata di festa. Qualcuno è probabilmente riuscito ad organizzare un viaggetto per questo ponte e magari ci ascolta da qualche bella località. Direi di invitare gli amici, certo, a raccontarcelo dove chiamateci, sono. Chiamateci, mandateci magari delle foto, esatto, fateci morire di invidia. Esatto, noi siamo qua solo, come dire, a sognare sulle vacanze degli altri. E parleremo proprio di viaggi, vacanze, dell'estate che si avvicina, che porterà con sé anche le sue mode, le sue tendenze. E allora a questi temi abbiamo pensato di dedicare anche la nostra rassegna di notizie. Sì, mi stanno dicendo quando vuoi, volevo che dicessi viaggiare ma non arrivava mai e quindi niente. Lo dico io? Parto, vuoi cantare? Ti senti così un po' Battistina? Andate. Allora, per i denari il primo viaggio è breve perché dobbiamo andare qua a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Cordusio, qua alla Borsa Italiana. Milano oggi ci racconta di una giornata di umore storto, meno 1,48% sul FTSE MIB. Poi vi racconteremo anche i temi che stanno condizionando negativamente questa giornata finanziaria, ma c'è in particolar modo il settore auto oggi che in tutta Europa è piuttosto nervoso. A Milano CNH Industrial perde più di 4 punti, Fiat meno 3. E allora, visto che parliamo di auto, chissà in quanti si sono spostati in questo lungo ponte del 25 aprile. Nei giorni scorsi c'erano le previsioni di Federalberghi e si sarebbero spostati circa 7 milioni e 400 mila italiani, per una permanenza media di 3,3 notti e spesa media di 313 euro. Questo è un po' quello che hanno scelto di fare gli italiani in questi giorni, e il 90% delle persone ha scelto di spostarsi verso mete italiane. Come vi dicevamo prima, voi raccontateci se vi siete spostati, cosa avete fatto, se magari siete stati a casa e avete iniziato a pensare alle vacanze estive, perché tra un po' faremo un focus anche su questo, per cui mano alla cornetta, 800 24 00 24, che è il numero verde naturalmente per intervenire e parlare con noi anche stamattina. Allora, sappiamo che soprattutto ultimamente al pensiero del viaggio si accompagna anche quello della nostra sicurezza. A questo proposito, il 14 aprile scorso il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva antiterrorismo sull'uso dei dati del codice di prenotazione, il PNR. D'ora in avanti le compagnie aeree saranno obbligate a comunicare alle autorità i dati dei passeggeri per tutti i voli provenienti da paesi terzi verso l'Unione Europea e viceversa. Gli Stati membri avranno una propria unità di informazione sui passeggeri, la WIP, per raccogliere i dati PNR che saranno conservati per 5 anni. Un nuovo importante strumento per la lotta contro i terroristi e i trafficanti, ha detto il relatore della direttiva, Kirk Hope, e insomma saremo tutti più tracciati. Non ci dimentichiamo che turismo è anche sinonimo di lavoro. Il Sole 24 Ore ha registrato ad inizio aprile un totale di oltre 5.800 posizioni in 8 marchi delle hotellerie e dell'hotellerie, che hanno dato via a grosse campagne di recruiting in vista dell'estate 2016. Non parliamo solo di contratti stagionali, anzi fra le figure più ambite compaiono professionisti stabili come i responsabili di offerta della ristorazione e strategie commerciali. Fra le risorse in fase di selezione spiccano direttori finanziari, contabili, chef e direttori di ristorante. Quindi se per qualcuno è arrivato il momento giusto per cercare una meta per le vacanze, per qualcun altro potrebbe essere l'attimo da cogliere per cercare lavoro. Per vacanza o per lavoro, chi viaggia però rischia di riposare male. Quando si dorme in un luogo non familiare, spesso si fa fatica a prendere sonno e la notte diventa agitata. Non dipende dalla comodità del letto, da quanto la stanza dell'hotel sia accogliente, la ragione è un'altra. Una parte del cervello resta sveglia a fare la guardia, tanto che si parla di effetto prima notte. I ricercatori della Brown University hanno evidenziato che è l'emisfero cerebrale sinistro a stare in allerta in modo da poter affrontare tempestivamente eventuali pericoli. Quindi, quando tornate a casa, cercate di riposare bene. Perché? Perché dormire bene sembra avere anche un buon effetto sul colesterolo buono. Questa è in estrema sintesi il risultato di uno studio dell'Università di Helsinki, che dopo aver esaminato l'impatto della privazione del sonno sul metabolismo del colesterolo, ha evidenziato che, rispetto a chi dorme a sufficienza, i privati del sonno mostrano un minor numero di lipoproteine HDL, il famoso colesterolo buono, e anche una minore attività dei geni che partecipano proprio nella regolazione del trasporto del colesterolo. Come a dire che il colesterolo si tiene a bada anche dormendo. E per finire, in questa giornata in cui parliamo di vacanze, di mete di viaggi, parliamo anche di chi al viaggio deve rinunciare per paura di volare oppure viaggia facendo conti con uno stato di forte ansia. Parliamo di aerofobia o paura di volare, è molto diffusa non solo tra chi non ha mai volato ma anche tra chi è costretto a viaggiare spesso in aereo. Si può manifestare con diversi livelli di intensità e una delle paure più diffuse come quella di subire un furto mentre si è in casa, paura che secondo l'Istituto di Ricerca e Mercato Sondea è la paura più grande degli italiani. E di paure parleremo nel corso della nostra trasmissione. Potete iniziare a prenotare i vostri interventi, ma dato che per viaggiare è meglio sapere anche l'inglese, parleremo anche dei vantaggi dell'apprendere una seconda lingua. Come siamo aggressivi questa mattina, ma insomma è certamente un pensiero molto gradevole quello che facciamo quando immaginiamo già da ora le nostre vacanze, però dobbiamo anche, come dire, prendere in mano la situazione se vogliamo fare una prenotazione con largo anticipo che ci dia modo anche di risparmiare un po'. Allora, sta finendo aprile, c'è chi è in giro in questa giornata di festa, casualmente capitata di lunedì, che quindi ha consentito un bel ponte, con l'eccezione delle sottoscritte. Peccato che il tempo non abbia aiutato ovunque, ma magari a qualcuno come dire, ne ha approfittato per fare una piccola riflessione, così con la pioggerella fuori si è rinchiuso in casa e ha iniziato a sognare un po' in vista delle vacanze di quest'anno. Lo dicevamo, si dice che chi prenota con largo anticipo risparmia un bel po', e allora è il momento buono per prenotare. Certo che non è possibile per tutti, perché per le esigenze lavorative e professionali qualcuno ha bisogno di un po' più di flessibilità, quindi c'è chi volente o nolente deve poi organizzarsi più in là nel tempo, quando ha chiarezza di quale periodo potrà dedicare alle meritate ferie. Però anche lì bisogna cercare qualche strategia per farsi una bella vacanza rispettando il portafoglio. In ogni caso, iniziare a farsi un'idea può essere già utile e anche divertente. Allora noi oggi parliamo di tutto questo in trasmissione. Tu hai già immaginato cosa farai quando sarai lontana da me? Allora, cosa vuoi che ti dica? Un po' ci ho pensato e penso che confermerò un po' il viaggio dell'anno scorso, ma sai, voglio stupirti con effetti speciali. Ah, bah, guarda un po', magari stamattina con il nostro ospite ti viene anche qualche buona idea. Allora, saluto e ringrazio per essere tornato a trovarci, e a cui abbiamo rovinato il lungo ponte, Pier Giorgio Reggio, direttore commerciale e turismo di Blue Team Travel Group. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che finalmente chiamiamo per una puntata tradizionale, non per commentare le conseguenze di qualche grave situazione geopolitica, però insomma abbiamo voluto strafare anche stavolta chiamandola in una giornata di festa, quindi e festeggia un po' anche con esatto, noi, perché esatto. Venire da noi è un po' una vacanza. Molto volentieri. Eccoci qua. Allora, adoro gli uomini bugiardi. Esatto. Volevo leggere a Pier Giorgio Reggio subito un dato diramato nei giorni scorsi da Solo Affitti, che è una piattaforma online del gruppo appunto Solo Affitti Vacanze. Loro hanno questa piattaforma appunto naturalmente in cui si occupano di prenotazione di case per la villeggiatura. Gli italiani a quanto pare cercano la casa per le vacanze già da gennaio. Noi siamo a fine aprile, è comunque il momento giusto per prenotare qualunque tipo di viaggio, dottor Reggio. Ma assolutamente, anche perché soprattutto sulle destinazioni come il Mar Italia, se si vuole naturalmente avere la scelta della location migliore, anticipare la prenotazione è sicuramente consigliato. Non tutti purtroppo, sappiamo, possono già da gennaio esatto. Muoversi, anche perché problemi legati al lavoro, all'organizzazione della famiglia sono sicuramente difficili in questo periodo, però ecco, è sempre consigliato. È consigliato prenotare anche in anticipo quando si parla di pacchetti turistici, perché anche sui volati la prenotazione anticipata permette degli sconti decisamente importanti. E la tendenza soprattutto del viaggio intermediato, che è quello del tour operator classico, è quella ormai di non incentivare la vendita last minute, perché la vendita last minute crea sicuramente grossi problemi in termini di organizzazione e di programmazione, e quindi si tende sempre di più ad avvantaggiare invece chi prenota con largo anticipo. Vedi. Come network avete già fiutato un po' le tendenze di quest'estate 2016, dove andranno gli italiani? Ci sono già delle previsioni, anche se chiaramente possono essere ancora abbastanza superficiali, immagino. Sì, sono delle previsioni, anche perché le previsioni sono anche fondamentalmente influenzate dalle destinazioni che purtroppo non possono essere raggiunte. Più che non possono essere raggiunte, non vengono richieste dai clienti, perché comunque la paura di raggiungere destinazioni apparentemente insicure, dico proprio apposta apparentemente insicure, condiziona molto le previsioni. Quindi ci si aspetta sicuramente un'altra ottima annata sul Mar Italia, con alcune aree geografiche che stanno andando ancora molto bene, come la Sardegna e la Puglia, Baleari, Grecia, e poi sul lungo raggio molto bene ancora i Caraibi, con un boom della destinazione di Cuba e gli Stati Uniti, che la fanno sempre un po' da padrone. Le tappe che invece restano ancora vivamente sconsigliate, ce ne sono altre rispetto a quelle di cui abbiamo parlato anche in tempi recenti quando l'abbiamo invitata? Non so, oltre all'Egitto per esempio, che cos'altro c'è? Allora la questione è legata sempre fondamentalmente a quell'area geografica specifica, quindi non esiste un blocco della destinazione, perché i voli, anche se naturalmente molto ridotti, ancora sul Mar Rosso vanno, la stessa cosa sulla Tunisia e la stessa cosa in Turchia. Sono stati ridotti notevolmente perché la richiesta si è abbassata e quindi inevitabilmente la destinazione è aperta, quindi i voli arrivano a destinazione, ma sicuramente meno rispetto al passato, perché comunque la psicosi che è intervenuta sui clienti ha fatto sì che la richiesta fosse sicuramente molto bassa. E i prezzi quindi sono più bassi? No, perché riducendo la programmazione, alla fine comunque il prezzo scende quando c'è una programmazione e quindi un'offerta assolutamente superiore a quella che è la domanda. In questo caso l'offerta viene parametrata sulla base della domanda e quindi i prezzi rimangono pressoché invariati. Allora, intanto, per quello che vi riguarda, quale idea vi stuzzica il pensiero in questo momento? Dove vorreste andare? Dove invece il vostro budget vi consentirà di andare? Perché poi anche qua un ragionamento bisogna farlo, anche se sul tema del budget di spesa è sempre un po' difficile fare delle previsioni, non sappiamo bene quanto potranno spendere gli italiani quest'anno, non facciamo che parlare di questo tunnel di crisi dal quale sembra siamo usciti, magari qualcuno quest'anno potrà mettere sul piatto qualche soldino in più e godersi un po' di più le vacanze, che dici Nicoletta? Potrebbe essere un'ottima idea. Intanto noi però aiutano. Allora noi è ora. Dobbiamo andare, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, e parliamo, per andare in vacanze è anche un'occasione per fare amicizia, e le amicizie sono molto più facili se parli, dobbiamo dirlo, inglese, no? È diventata una lingua un po' che per tutti, non è facile, bisogna rispolverarla, è una bella fatica, ma il nostro cervello ci guadagna. Cuore e denari. E stai! E scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? Ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excusemi. Sai che? Bitte schön. Noio. Sai che? No. Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio. Volevo savoir. Noio voleva savoir l'idris. Viaggiate, e come ve la cavate con le lingue francese, inglese, tedesco, cinese? 800 24 00 24, conoscete una seconda lingua? La possedete? La sapete leggere e scrivere? Vi state preparando per studiarne un'altra? Insomma, farsi capire è importante, soprattutto per chi viaggia, e sapere una seconda lingua può essere senz'altro d'aiuto. Tra l'altro, proprio sabato, Deborah ha letto che tra le varie giornate hanno tirato fuori anche la giornata della lingua inglese. Vabbè, l'avevi letto? Tanto per continuare, a deprimerci un po', visto che la mia e la tua qualità di conversazione in inglese la mia è un pessima. Io contavo su di te. Comunque, tutti lo sappiamo, l'inglese è la principale lingua comune internazionale, sia nel campo del lavoro che dell'intrattenimento. Impararlo da piccoli è più facile, da adulti si fa un pochino più di fatica, ma noi ci portiamo avanti. Abbiamo invitato il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari. Buongiorno. Professore, bentornato. Thank you, Nicoletta and Deborah. Good morning. Good morning. Ecco, che non è diventato il nostro docente di inglese, ma è rimasto il neuropsicologo e presidente di Assomensana, che è un po' il nostro asso nella manica. Professore, certo. Intanto è che non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, per imparare, e le neuroscienze lo confermano. E noi sappiamo bene che il cervello è un organo plastico e quindi questo lo rende capace di superare quello che sembrerebbero dei limiti. Occorre però allenarlo. Che capacità si allenano, professor Iannocchari, imparando una seconda lingua? Io adesso parlavo di dell'inglese, perché già che uno si deve far fatica, meglio una fatica che rende, no? Però, professore... Io sto facendo il corso di inglese proprio per mantenere il mio cervello allenato, perché effettivamente quando si apprende una nuova lingua, che cosa succede? Succede che chiamiamo in causa delle aree del cervello che solitamente rimangono silenti. Ad esempio, quando prendiamo delle nuove parole, attiviamo l'emisfero destro, mentre nel gestire le parole che già conosciamo, chiamiamo in causa l'emisfero sinistro, per cui l'emisfero destro dà una mano e si attiva. In questo modo attiviamo delle aree cerebrali e in più anche alleniamo delle funzioni cognitive. Molto importante imparare una nuova lingua per sviluppare la working memory, cioè la memoria di lavoro, una memoria a breve termine che purtroppo col passare del tempo tende a declinare. Poi un'altra funzione importante che viene allenata apprendendo una nuova lingua sono le funzioni esecutive, soprattutto la capacità di organizzare le informazioni, dirigere più efficacemente l'attenzione per risolvere i problemi, ad esempio, e si diventa anche più capaci di cogliere gli aspetti salienti dell'ambiente, focalizzandoci su ciò che ci interessa ed evitando tutto il resto. Una bella ginnastica per il cervello. Eh sì, una bella ginnastica che va a risvegliare, no? Penso quando Deborah mi racconta che fa degli allenamenti nuovi, degli esercizi in palestra, esatto, che riscopre dei muscoletti che non sapeva neanche esistessero. Esatto. E quindi noi, facendo lavorare emisfero destro e emisfero sinistro, parole nuove, parole vecchie si intrecciano e il cervello diventa sudato. Ma professor Iannocchari, meglio impararle da piccoli? Ci sono delle ricerche straordinarie sui bambini bilingue. Apprendere da piccoli due lingue è formidabile, addirittura i polilingue ancora meglio, però a noi accontentiamoci di quello che si può fare se non abbiamo avuto, diciamo, la fortuna di essere esposti a due lingue. Ecco. Per i bilingui ad ogni modo vale tutto quello che abbiamo detto prima rispetto alle loro funzioni cognitive. I bilingue hanno una capacità di pianificare, organizzare diversa dai monolingue. E in più una cosa molto particolare è che i bilingue risultano protetti rispetto all'esordio del morbo della malattia di Alzheimer, addirittura anche le persone analfabete. Straordinario. Ma quindi due è sempre due meglio di una. Dottor Reggio, lei quante lingue parla? Ma io purtroppo... No, chiedevo al dottor Reggio, io so che lei ormai l'inglese per lei è praticamente diventata quasi una lingua madre, ma dottor Reggio, lei quante lingue parla? No, purtroppo pur lavorando nel mondo del turismo parlo solamente inglese e devo dire neanche così fluentemente. Poi come sempre la palestra del viaggio comunque aiuta molto anche a rispolverare l'inglese, quindi dopo qualche giorno di difficoltà di abitudine poi si rispolvera quello che si è imparato da piccoli. E non per dire, perché sono la donna di cuore, ma anche avere una fidanzata o un fidanzato pare che sia un'altra attiva, vero? Si impara ancora meglio. Noi non facciamo più in tempo, peraltro. Poi magari vediamo che se magari c'è qualcuno che sta pensando di organizzare le sue vacanze proprio con l'obiettivo di fare un corso di lingua, magari daremo qualche suggerimento anche a coloro che stanno accarezzando questa idea. Mi sembra un'ottima idea, ma vorrei, prima di lasciare la linea poi al nostro GR, abbiamo ancora un paio di minuti per chiedere al professor Iannocchari di regalarci qualche trucchetto per mettere il turbo al nostro cervello. Abbiamo detto che imparare una lingua è a tutti gli effetti una vera e propria sorta di allenamento. Allora, a chi ci sta ascoltando e sta imparando una seconda o una terza lingua, quali sono i consigli, professor Iannocchari, per far rendere questa fatica? Suggeriamo tre esercizi. Allora, il primo esercizio è scrivere 5 parole della lingua che stiamo apprendendo che iniziano con la lettera A, poi 5 che iniziano con la lettera B e così via, per esempio Harmony, Angry, Another, Any, Angry, così via, e poi lo facciamo con la lettera B e con la lettera C e così via per tutte le lettere dell'alfabeto. In questo modo che cosa facciamo? Arricchiamo il nostro vocabolario. Poi il secondo esercizio è quello di copiare una frase, sì, ritagliare le parole che compongono la frase, sparpagliarle sul tavolo e poi ricomporre. In questo modo prendiamo maggiore dimestichezza con la grammatica, che certo, è uno degli scogli, no, dell'apprendimento, esatto, di una nuova lingua. Ecco, il terzo esercizio che si potrebbe fare anche, potrebbe proporre anche agli ascoltatori, è quello di prendere una parola, perno, per esempio car, macchina, mm, e poi trovare altre cinque parole che hanno attinenza con car. E questo lo si può fare con house, oppure se viaggiamo con travel, con le parole che ci interessano particolarmente. Dobbiamo andare al ristorante, quindi prendiamo la parola ristorante nella lingua che stiamo apprendendo e poi troviamo altre cinque parole che sono associate a quella. In questo modo ampliamo e rendiamo anche più flessibile il pensiero quando deve cercare delle parole che ci servono per farci capire. Una sorta di stretching questa, a proposito. Professor Iannoccari, quindi l'invito è per i nostri ascoltatori in italiano, in inglese, in francese, nella lingua che preferite, provate a fare questo esercizio, sicuramente il vostro cervello vi ringrazierà. Quindi una parola perno, come l'ha chiamata il professor Iannoccari. E stamattina travel ci piace. Vero? Ecco, infatti, travel, e quindi, oppure viaggio, e iniziate a comporre delle parole intorno. Poi se volete raccontarcela all'800 24 00 24, viaggiamo con voi, almeno con la fantasia. Professor Iannoccari, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo. Grazie. Molto volentieri, grazie per l'invito. Noi torniamo dopo il giornale radio, parleremo appunto, esatto, faremo qualche, non preventivo di spesa, ma daremo qualche idea a chi vuole viaggiare per imparare una nuova lingua e magari scandaglieremo un po' anche il mondo brevemente, Nicoletta, di chi vuole fare quest'anno una vacanza un po' trasgressiva, che ne so, paracadutismo, snorkeling, quello che ti piace. Andiamo. A dopo. Unico, inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30. Su Radio 24. Cuore e denari. Allora, siamo ritornate in diretta. Avete già pensato alle vacanze del 2016? Cosa vi piacerebbe fare? Dove vi piacerebbe andare? Avete già un'idea del budget che dovreste mettere sul piatto per fare un viaggio che naturalmente vi accontenti, vi soddisfi, vi riposi adeguatamente, ma che soprattutto soddisfi poi anche le esigenze del portafoglio? Abbiamo affrontato questo argomento nella prima parte della trasmissione, buttando un occhio anche ad un obiettivo che potrebbe essere interessante: imparare una nuova lingua. Ci sono molte persone, abbiamo parlato, no, Nicoletta, con il professor Iannoccari, anche per quello che riguarda l'elasticità mentale, forse nella nostra età. La plasticità età, del cervello, esatto, aiuta. Esatto, in età adulta siamo un po' più rigidi, però insomma esercitandoci possiamo fare qualche passo avanti anche noi. Certamente andando in una località giusta, facendo un bel corso di lingua, possiamo tornare a casa anche magari avendo fatto un buon investimento. Allora, con noi stamattina completiamo un po' la nostra chiacchierata sulle mete possibili per il 2016 con Pier Giorgio Reggio, direttore commerciale e turismo di Blue Team Travel Group. Parlando di adulti, quali raccomandazioni possiamo dare a chi proverà ad organizzare le proprie vacanze con questo obiettivo? Migliorare le proprie capacità linguistiche, scelta la città, quali sono gli aspetti che dobbiamo e possiamo tenere in considerazione? Ma allora, intanto capire un attimino che tipo di vacanza si intende fare, nel senso, se è una vacanza studio ci sono diverse alternative, dalle vacanze studio all'interno di college, famiglia, oppure semplicemente una vacanza studio proprio consigliata per chi ha già una buona base di inglese. Anche io e Nicoletta, che siamo un po' attempatine, possiamo andare in college? Assolutamente sì. Dai, assolutamente, ci prendono? Assolutamente. Quella per tutte Castello, però. No, le alternative sono molteplici, ci sono tra l'altro... Anni azzurri, come si dice. La residenza d'argento, esatto. Molto gettonata è Malta, per esempio, che dà la possibilità... Mi ha sempre incuriosito questa... Malta è una destinazione molto gettonata per chi vuole imparare l'inglese, perché è consigliata a un cliente anche di età abbastanza giovane, perché comunque dà la possibilità di divertirsi, ma nello stesso tempo di imparare bene bene l'inglese. Mm. Quindi è una destinazione che negli ultimi anni, devo dire, è stata sempre molto richiesta per chi voleva fare appunto una vacanza un studio. Un costo un po' intensivo magari. E poi anche la rinunciare distanza, al mare, quindi, anche. Ecco, senza rinunciare al mare, senza rinunciare al divertimento e senza dover fare troppe ore di volo. E passando invece ad un'altra cosa, dopo le lingue, quali sono le vacanze più alternative, i trend inediti che potrebbero caratterizzare l'estate 2016? Perché è sempre più di moda organizzare una vacanza cogliendo l'occasione per vivere esperienze nuove, fare il pieno anche un po' di adrenalina. Vacanze sempre più movimentate per gli italiani, dagli sport appunto alle escursioni, lanci in paracadute. Che cosa c'è quest'anno che bolle in pentola di curioso? Ma allora, la travel experience è quella che ormai negli ultimi anni condiziona molto le scelte delle vacanze, quindi anche nella scelta di una vacanza di una famiglia l'esperienza per il papà o la mamma, che può essere un appassionato di sport, condiziona spesso la scelta della destinazione. E quindi, per esempio, vacanze per golfisti, quindi si cerca sempre una destinazione magari che possa dare la possibilità di fare golf, ma nello stesso tempo di dare la possibilità ai propri figli di fare mare e di essere assistiti con un po' di animazione. Oppure, per esempio, alternative molto negli ultimi anni va molto il trekking, quindi tutte le destinazioni che danno la possibilità di col fare golf trekking. Adrenalina poca, direi, per golf è una vacanza sì, parlerei poco di adrenalina, infatti, però ecco, il trekking per esempio è un'altra delle travel experience molto richieste, perché c'è negli ultimi anni questa forte volontà di ritrovare il contatto con la natura. E comunque sì, ecco, fondamentalmente destinazioni che diano la possibilità anche di offrire più un ventaglio di offerte differenti. Esatto, ecco. Peraltro proprio per queste travel experience credo che si stiano anche abbastanza diffondendo sul mercato magari intermediari dell'offerta turistica che si stanno specializzando in questo settore, no? Sì, non solo, ma anche le stesse destinazioni oggi si stanno cercando di attrezzare per fornire al cliente il maggior numero di attività, da quelle sportive e non. Io facevo l'esempio prima, una destinazione mi sento di consigliare proprio perché sono appena rientrato, Tenerife. La sua abbronzatura parla chiaramente. Infatti io non lo guardo. Girati di là, guarda. Finisco io questa incombenza di intervistarlo. Sono i lati negativi del mio lavoro, diciamo, sì. No? Quindi molti, molto negativi. No, ecco, le Canarie, per esempio, nello specifico Tenerife, sono una destinazione che va bene per tutte le tasche, perché dà la possibilità. No, ma è quasi anche per tutte le stagioni, direi, perché per tutte vuol le fare stagioni, la per tutte le tasche, perché comunque l'offerta turistica ricettiva è varia, quindi dagli appart hotel agli hotel lusso, 5 stelle lusso, e la destinazione si è attrezzata molto anche per fornire esperienze di viaggio. Posso quindi chiedere qual è un budget di spesa, per esempio, che deve essere messo sul piatto in un periodo come ma questo, allora, per una settimana, due persone? Intanto la prima cosa è che le Canarie sono raggiunte dai voli low cost, quindi per esempio partiamo con EasyJet e Ryanair, che spesso sono più competitive, ma anche le tariffe aeree dei voli di linea come Air Europa spesso sono anche più convenienti di quelle dei voli low cost. Quindi una vacanza di una settimana media può partire dai 400 euro a salire. Naturalmente dipende da che tipo di trattamento, che tipo di sistemazione. Ovvio. Però una coppia giovane che vuole fare una vacanza abbastanza basica, quindi con una sistemazione in solo pernottamento, con 400-500 euro esatto. Può fare una settimana. E poi si vive d'amore, mangiare niente. E poi si vive d'amore, si vive d'aria, si vive anche di divertimento. È una bella destinazione che io mi sento di consigliare, perché in questo momento abbiamo bisogno anche di destinazioni attrezzate e sicure. C'è un'ottima qualità di vita, ma così più o meno in tutte le Canarie. E insomma, abbiamo dato anche qualche suggerimento molto pratico ai nostri ascoltatori, per chi proprio non avesse messo testa su nessuna tappa. Noi già una l'abbiamo data. Però allora, voli low cost, però per arrivare si deve prendere l'aereo. Sì. Quante ore? Allora, se si fa il volo diretto, insomma, con 4 ore di volo si arriva. Poi naturalmente dipende se si parte da Milano, da Roma o da Napoli. Comunque sì, con 4 ore di volo in media si raggiungono le Canarie. 4 ore. Per alcuni sono davvero troppe, tantissime. La paura di volare è una delle paure più diffuse, ne parleremo nel corso, anzi ne parliamo con Alberto Pellai, che è già in linea con noi. Alberto, buongiorno. Buongiorno ad Alberto Pellai. Buongiorno a tutti, mi verrebbe da dire enjoy your flight, godetevi il vostro volo. Ma qua questa mattina stanno sfoderando tutte le loro... Intanto io non posso dirlo in inglese perché non le so, ma Alberto Pellai è, che così lo ricordo. Ah beh, tutte le sue cariche in inglese, hai voglia. È medico e ricercatore all'Università di Milano, è psicoterapeuta, autore di un'infinità di libri, infatti, che sono sempre in cima alle classifiche, libri dedicati ai genitori, ai ragazzi, ai modi... ma anche a chi decide di vincere la paura di volare. Ti sei occupato anche di questo, un libro di prossima uscita. Noi, dato che stiamo partendo, ho avuto la fortuna di conoscere Giuseppe Lapenta, che è un comandante di volo ma è anche uno psicologo e che lavora tanto anche con persone che hanno paura di volare, quindi l'idea è stata proprio quella di provare a entrare un po' nella mente delle persone o che hanno paura di volare o che comunque quando salgono su un aereo provano quell'ansia un po' indefinita che toglie un po' il gusto all'esperienza del viaggio, e abbiamo provato poi a impacchettare tutta una serie di informazioni e consigli proprio per volare sereni, che poi è la condizione migliore per cominciare una vacanza. Che tu ci darai tra poco, e tu hai sottolineato un aspetto, ne parlavamo un pochino fuori onda con il dottor Raggio, la paura di volare è molto diffusa non solo tra chi non ha mai volato ma anche tra chi è costretto a viaggiare spesso in aereo. Uno sale in aereo e, dottor Raggio, com'è? Si dice... Si supera, si gestisce, diciamo così. Io non ho mai, nonostante il lavoro che faccio, non ho mai vissuto il volo come con serenità e con tranquillità, però sono quelle paure che devono essere gestite e superate, quindi... E questo, ecco, con questa affermazione, Alberto Pellai, su questa affermazione potrebbe scrivere un capitoletto. Alberto, le paure possono essere gestite, cioè magari non sparisce completamente, ma tu riprendi un po' in mano il timone, è corretto? Sì, è proprio così, e soprattutto la paura di volare, perché poi deriva proprio da una sorta di sovrastima del rischio associato all'esperienza del volo, cioè dovremmo proprio considerare che volare è in assoluto il metodo di viaggio più sicuro che esista. Non esiste niente nella vita che è così sicuro come salire su un aereo per arrivare alla propria destinazione. Quindi, partendo da questa consapevolezza, uno dovrebbe proprio provare un po' a riflettere su perché ho così tanta ansia o perché ho così tanta paura, perché il mio cervello mi fa suonare costantemente una sirena d'allarme quando in realtà non ce n'è motivo, non ce n'è ragione. Allora, Alberto, questo libro che tu hai scritto a quattro mani, ci tiri fuori 5 trucchi per mettere la paura di volare KO? Ma direi intanto è fondamentale che la persona che non viaggia serena riconosca da dove deriva la sua attivazione emotiva, perché ci sono proprio tante possibilità differenti. Una può essere che abbiamo nella nostra memoria il ricordo di un'esperienza di volo particolarmente turbolenta. Ecco, allora quella è di per sé una paura di volare associata a un'esperienza pregressa che emotivamente non abbiamo elaborato bene e che quindi necessita proprio di essere rivista, riletta e risistemata nella nostra memoria emotiva. Un'altra modalità molto frequente invece, chi ha paura di volare, è spesso perché tende nella vita ad avere tutto sotto controllo, a gestire direttamente qualsiasi variabile della propria esistenza. Invece salire su un aereo significa mettere la propria mano, la propria vita nelle mani di un pilota e proprio dare fiducia a qualcun altro che si prende cura di noi e che gestisce la nostra esperienza di volo, il pilota e gli assistenti di volo. Per qualcuno questa è proprio un po' un'esperienza impossibile. Direi che lì il tema è quello della fiducia. Un'altra persona invece può essere che già nella vita normale soffre di claustrofobia. Allora il volo diventa un'esperienza pazzesca, perché dal momento in cui chiudono il portellone tu ti ritrovi in un ambiente confinato senza possibilità di scendere e conseguentemente direi che la paura di volare nasce ancora prima del volo, cioè stai in una dimensione che più hai legata. Una sorta di ansia anticipatoria ancora esatto. Prima di vivere la situazione ne hai paure, questo ha una sorta di effetto moltiplicatore. Esatto, poi c'è chi vive molto male le separazioni, allora salire su un aereo significa lasciarsi alle spalle il proprio nido, le proprie relazioni affettive che danno sicurezza ed entrare in una zona che è un po' inesplorata, e spesso queste persone in realtà gettano la loro paura di volare magari in un'esperienza con una mamma che quando erano bambini era iperansiosa e avevano il mal di pancia anche quando andavano a scuola. Ecco, cioè, vedi, quindi, si ritorna sempre alla mamma, la madre di tutte le paure, Alberto. Sì, dico un po' questo perché è proprio la paura di volare, è proprio una situazione abbastanza variegata dove è fondamentale che ognuno trovi un po' la sua zona di vulnerabilità, cioè da dove riesca un po' a prendere il bandolo della matassa e a gestirselo. Di base però io direi che i due blocchi di cose da fare per salire su un aereo tranquilli e sereni sono: da una parte, per chi ha molto bisogno di controllare l'esperienza, allora serve tanto capire che cosa succede durante l'esperienza di volo in ogni suo momento, quindi avere una buona conoscenza di tutte le fasi, dal decollo all'atterraggio, avere una buona conoscenza di perché sentiamo certi rumori, perché durante il volo il pilota ci dà certe informazioni, perché ci sono certe vibrazioni, conoscere tutti i fattori un po' causali che determinano per esempio poi una modificazione di quello che il nostro corpo registra durante l'attività di volo, ecco, permette di avere una sorta di preprogrammazione di tutte quelle variabili che potrebbero farmi sentire in balia degli eventi. Se io li conosco prima, li so pensare, li so gestire, riesco a tenere la mia ansia sotto controllo. Per chi invece non ha come tema fondamentale il bisogno di controllare tutto, ma è proprio che sente delle emozioni molto molto intense durante l'esperienza di volo, che quasi non sa bene da dove originino, ecco lì invece è fondamentale avere un buon controllo del proprio corpo, cioè riuscire ad attuare attività di rilassamento, concentrarsi sul proprio respiro, e controllando il respiro progressivamente si riesce anche a controllare quella sregolazione emotiva che si accede durante l'esperienza di volo. Avere in mano, sai che le riviste di enigmistica sono in assoluto le più vendute negli aeroporti. Perché il cervello va altrove, no? Porti la mente altrove. Esatto, usare proprio la tecnica della distrazione, per cui porto il mio cervello, come dici tu, in una zona che io sto tenendo sotto controllo, e così blocco quelle iperattivazioni emotive che invece potrebbero prendere sopravvento nel momento in cui io non ho trovato un'attività alternativa a quella di avere l'ansia e preoccuparmi di come sta andando il mio volo. Un altro consiglio può essere quello di imparare una buona tecnica di respirazione, naturalmente qualche mese prima di prendere l'aereo, e poi provarla a mettere, no, a respirare quando siamo in volo. E su questo possiamo proprio dare qualche consiglio concreto anche in questo caso, cioè possiamo pensare ad una respirazione in quattro tempi, dove inspiriamo abbastanza lentamente, finita l'inspirazione ci fermiamo 2-3 secondi con l'aria nei nostri polmoni e magari un po' nella nostra pancia, espiriamo ancora più lentamente e poi ci fermiamo ancora 1-2 secondi, dopodiché ricominciamo. Ecco, questa è una modalità che progressivamente tranquillizza molto tutta un po' quell'iperattivazione che la persona che non vola serena ha dentro la propria mente. Quindi una respirazione dedicata a tutte le persone a cui la paura toglie il respiro. Andiamo a Gabriella che ci chiama da Ivrea. Buongiorno Gabriella, in questo giorno di festa e a cuore denari. Buongiorno, io avrei da rivolgere una domanda al dottor Pellai. Sì. In merito alle paure irrazionali durante il volo, non durante, prima. Prima. Un forte stato di ansia al decollo che non si verifica più all'atterraggio. Perché ormai uno dice, ormai è andata. Il peggio è passato. Allora Alberto, le paure in alcune fasi proprio del viaggio, sì, alcune il decollo, atterraggio, alcune le turbolenze. Dimmi, allora, il decollo dimmi quando proprio ti fa paura e ti dirò chi sei, Alberto. Esatto, il decollo è proprio una delle fasi in assoluto più ansiogene, per due motivi. Da una parte, in termini proprio di sollecitazioni sul corpo, questa accelerazione molto forte viene registrata anche internamente al nostro corpo e visceralmente, quindi noi abbiamo proprio la percezione del cambio di stato. Il secondo aspetto legato al decollo però è che è proprio il momento di stacco da terra e quindi è il momento di distacco da tutte le certezze, da quella zona di protezione e sicurezza. Spesso nella vita delle persone che hanno questa paura molto forte legata al decollo c'è una fatica anche legata pregressa, magari quando erano bambini, legati alla separazione, cioè hanno per esempio vissuto una settimana o due settimane della loro vita in un campo vacanze e si sono sentiti molto soli, oppure hanno dovuto separarsi dalla mamma o dal papà per qualche motivo, ecco, oppure sono stati abbandonati in amore di recente o nel passato. Ecco, il decollo è proprio quella zona dove ci si separa dalla terraferma, dalla zona di protezione, e quindi implicitamente il nostro cervello si mette in una zona di attivazione più intensa e più vulnerabile. A questo punto mi devi dire chi invece sperimenta la paura durante l'atterraggio, perché quelli sono persone che vogliono, come mai, non vogliono mettere i piedi per terra? Sono i no, sogni? Allora, spesso sono persone che hanno letto tantissimo e queste sono proprio le persone che vogliono avere tutto sotto controllo e per esempio hanno scoperto che l'atterraggio insieme al decollo è una di quelle fasi più pericolose del volo, cioè dove aumenta in modo molto significativo, cioè quando c'è un incidente il rischio è fortemente legato alla zona dell'atterraggio. Allora lì è come se già hanno il pensiero catastrofico ed è un po' come se si dicessero, ecco, qua aumenta esponenzialmente la mia paura di la mia possibilità di farmi male, la mia vulnerabilità, e quindi entrano in uno stato che si prepara alla catastrofe. Ecco perché l'ansia diventa così intensa. Allora ci scrive su Twitter: sono io, la mia paura più grande è l'aracnofobia, sono terrorizzata dai ragni, insetti, insomma. Sul tema delle paure sicuramente torneremo, perché le paure sono infinite, possiamo comunque imparare a gestire e tenerle sotto controllo anche con il libro di Alberto Pellai, Se volare vi fa paura. No, io invece non ho nessuna paura di rispondere ad Aurelio da Twitter, che subito, non appena ho fatto il mio commento sul tema del golf, mi sono scatenata contro i golfisti, perché non ho detto niente di male, ho detto beh, insomma, non è che ci sia tutta questa adrenalina rispetto ad altre travel experience di altro tipo, il trekking, gli escursionisti, i paracadutisti, il parapendio e quant'altro. Ho detto, Aurelio, la subito perdiamo, però, detto, no, mi ha detto prova e vedrai. Le posso assicurare, Aurelio, che ho anche fatto questo nella vita, non è proprio la mia grande passione il golf, ma rispetto tutti quelli che invece hanno questa passione per l'appunto. Sì, un paio di domandine a Pier Giorgio prima di salutarlo. Certo, grazie ad Alberto Pellai. Ci dice il titolo del libro, sì, scusami, esatto, che ce lo siamo dimenticati. Preciso, preciso. Uscirà agli inizi di giugno, sarà 101 cose che devi sapere per volare sereno. 101, eh? 101. Non 99, sì, o 100, no, ecco. Grazie ad Alberto Pellai. Grazie a voi, buona giornata. Allora, sempre buttando un occhio all'estate 2016, ma in realtà partendo da questo ponte del 25 per Giorgio Reggio, ho trovato questo osservatorio di Vola Gratis che ci racconta che il ponte del 25 aprile inaugura anche la stagione delle crociere, prenotate in maggioranza da coppie, durano 8 giorni o anche meno e si configurano di fatto come long weekend marittimi, costo medio 345 euro a persona. Vanno ancora bene le crociere? Assolutamente sì, anche perché la stagionalità delle crociere negli ultimi anni è diventata anche sul Mediterraneo di 12 mesi, quindi prima non si poteva immaginare di poter fare una vacanza in crociera d'inverno nel Mediterraneo, invece oggi sia con le crociere di 3-4 notti che con le crociere di una settimana si riesce a viaggiare e anche con una buona frequenza anche durante l'inverno. Certo che il ponte del 25 aprile o la Pasqua, a seconda di come è posizionata cade, certo, o di come cade, segnalano l'inizio delle crociere del periodo estivo, perché naturalmente il Mediterraneo inizia ad avere un'affluenza decisamente superiore rispetto a quello invernale. Però le crociere sono un trend sicuramente sempre in crescita e lo dimostrano anche i dati positivi delle due / 3 compagnie di navigazione più importanti in Italia. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci sono, ma anche ci quelle con cosa vuoi sapere? I campetti di allenamento per il golf. I golfisti? Magari mini golf. Mini però. Golf ci saranno? Ma sì, all'interno. Per sparare un po' di palline in mare. Assolutamente no, sì. No, non inquiniamo, dai, anche con le palline da golf. Grazie Pier Giorgio Reggio. Volevo grazie fare l'ultima domanda, che è sempre quella odiatissima dai nostri interlocutori. L'ultimo suggerimento da dare per prepararci adeguatamente all'estate 2016 dall'operatore del turismo, insomma, c'è qualche cosa di carino da dire magari per i nostri amici che non devono ossessionarsi dal portafoglio, forse perché magari qualche cosa a budget decoroso troviamo da fare qualcosa anche di bello. Ma è difficile dare un consiglio che vada bene un po' per tutti. Io quello che mi sento di dire è di affidarsi sempre ad un consulente di viaggio che conosce i propri gusti, le proprie preferenze. Cambiare tutti gli anni il proprio consulente di viaggio è come ricominciare da capo. Perché, un po' come il consulente finanziario, il medico, adesso pure i consulenti di viaggio. Ma perché si crea una forte relazione, una forte empatia anche nel conoscere i gusti, le preferenze. Quindi lei mi sta dicendo che ha dei clienti che segue da anni, da ma tanto. Sì, assolutamente. Ci sono delle fidelizzazioni che vanno avanti da molti anni proprio per questo motivo, perché è veramente come cucire un vestito addosso, quindi conoscere le preferenze del proprio cliente è fondamentale. Quindi quello che io mi sento di consigliare è proprio di affidarsi sempre a consulenti di viaggio, quindi a agenzie di viaggio serie e senza pensare di cambiare ogni anno semplicemente per ricercare il prezzo migliore. È importante ricercare il consulente che vi conosce sempre di più. Arriverà adesso Aurelio con tutta una lista di campi da golf in tutto il mondo e vediamo se ce ne sono tantissimi. Grazie per Grazie a voi. È tempo adesso di andare a raccontare la borsa, è pure tardi, però insomma oggi ce la siamo presa un po' con tranquillità, un po' di vacanza, serenità. Dai. Sì, dai, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. La gente distinta non ama mettersi in mostra. Karl Kraus. Il tema di questa ultima parte di Cuore e Denari è paese che vai, usanza che trovi, no? Ma lo stile certo. Italiano resta inconfondibile, Nicoletta. Cosa dicevamo prima a proposito del viaggio? Allora, il tuo ospite raccontava che il viaggio deve essere un po' cucito su misura come un bell'abito. E quindi involontariamente ci ha dato l'assist per la seconda parte della nostra trasmissione. Allora, girare il mondo significa anche spesso osservare, incuriosirsi, appassionarsi sugli stili, sui costumi dei paesi e delle popolazioni. Voi fate caso a come si vestono in giro per il mondo, oppure andate in giro un po' con quella puzzetta sotto il naso tipica dell'italiano che sa di arrivare da un paese assolutamente inarrivabile, no? In quanto a gusto nel vestire oltre che nel mangiare. Anche se poi si sa è tutto relativo, perché non è detto che nel mondo la pensino esattamente così sugli italiani, che siano tutti chic, elegantoni, però insomma sono tutti innamorati del Made in Italy in tutto il mondo. E fanno bene. Esatto. Allora, così cosa abbiamo fatto? Noi, per allietare questo 25 aprile, in cui molti di voi ci ascoltano magari in auto raggiungendo qualche località per una gita fuori porta, se non avete fatto il ponte tutto intero, abbiamo pensato di invitare uno scrittore che ha studiato a fondo la storia dello stile italiano e il frutto delle sue ricerche è contenuto nel libro fresco fresco di stampa Con stile, come l'Italia ha vestito e svestito il mondo, edito da Garzanti, è uscito praticamente proprio l'altro giorno, è un neonato. È caldo. È caldissimo. Alessandro Marzomagno, autore appunto di questo libro, benvenuto. Grazie. Grazie, buongiorno a voi, buon 25 aprile, e visto che sono veneziano anche buon San Marco. Ecco, allora infatti, vogliamo dire come ha voluto celebrare la ricorrenza? Allora è arrivato e ci ha portato due rose rosse. Ecco lo da stile. Un gambo, hanno un gambo lungo come praticamente la mia gamba. Ma a Venezia il giorno di San Marco si regala il boccolo, che sarebbe una rosa rossa in boccio, e quindi mi sembrava opportuno mantenere viva questa tradizione. Noi siamo veramente colpite da questo gesto, perché siamo sempre molto coccolate da un sacco di ospiti, però fino a tanto non si erano mai spinti, no. E quindi noi questa mattina abbiamo veramente gradito moltissimo. Allora, tra l'altro, Alessandro, che è è un amico, un giornalista, è uno storico, ha fatto tantissime cose nel corso della sua carriera professionale, è stato anche l'autore di altri libri molto interessanti, sempre un po' sullo stesso filone della ricostruzione storica, un po' per comparti, perché ha fatto L'invenzione dei soldi, la storia del denaro, che noi all'epoca della pubblicazione, certo, appunto, presentammo forse a Salvadanaio. Tra l'altro ho ricostruito anche, era lo stesso periodo, Pasqua o 25 aprile di circa 3 anni fa. Poi, in occasione di Expo 2015, ha scritto Il genio del gusto, come il mangiare italiano conquistato il mondo, e qui dobbiamo farglielo magari ripescare questo libro per le nostre puntate sull'alimentazione, Nicoletta, perché ci sono cose molto carine e interessanti. Quindi deve tornare anche senza rose, volentieri, non solo a San Marco. E adesso andiamo invece al genio, non al genio del gusto, allo stile, come l'Italia ha vestito e svestito il mondo. Alessandro, io ti vorrei dare del tu in diretta, perché comunque ormai ci conosciamo da un bel po' di tempo. Facciamoci amici. Esatto, dopo le rose d'altronde abbiamo fatto fare un salto di qualità enorme al nostro rapporto. Siamo intimi. Ecco. Quanto indietro nel tempo hai scavato per questa ricostruzione nello stile italiano? Perché si parla proprio di un viaggio nel tempo che dall'antichità arriva fino ai giorni nostri, e quindi in che modo e perché nei secoli è cambiata l'idea di eleganza? Sì, diciamo, io grosso modo parto dal Medioevo, perché il Medioevo è stata una frattura un po' in tutto, in tutti i campi, anche nella finanza, tra il mondo antico e il mondo moderno. Ci sono però dei richiami ai romani, perché per esempio adesso mi sembra che abbiate tutti e due i pantaloni, no? Quindi vi vestite come i barbari. Quando invece vi mettete le gonne, vi vestite come i romani. Non portavano le mutande, però, e noi ce le no, abbiamo. Non portavano le mutande che per lungo tempo. E qua tendiamo un pietoso velo. Allora, i romani non portavano le mutande, ma non si portavano fino a tutto il 700 circa. Mamma mia. E insomma, quindi siamo partiti dal Medioevo. Nel libro racconti, tanto per partire subito con alcune curiosità, come gli uomini nel 500 si imbottissero le calzemaglie, perché qua voglio dare il prossimo assist a Nicoletta. Si imbottissero le calzemaglie sui polpacci e le natiche per sembrare più muscolosi. E le donne nel 700 e nel 600, invece, in attesa dell'era del silicone, indossavano già seni artificiali di cartapesta, pure scomoda e dolorosa. Ma credo di sì. Beh, a parte che quanto a dolorose, se pensiamo ai busti di metallo con le punte di ferro, dovevano essere molto più dolorosi. Ma sì, diciamo che la mastoplastica non è assolutamente una novità, solo che al tempo non si era sviluppata la chirurgia estetica, per cui i seni artificiali erano al di fuori, erano di cartapesta, poi anche nell'Ottocento gonfiabili. Infatti si racconta di una cena in cui a una signora si è sgonfiato un palloncino e proprio come capita in aereo tra l'altro quella a cui scoppia il silicone, la leggenda metropolitana vedi che tutto torna. E poi le prime mastoplastiche erano fatte con delle cose atroci, tipo palline di legno, spugnette, questo parliamo degli anni 20 del Novecento, oppure palline di avorio, insomma, forse è meglio non pensare a cosa succedesse. Però insomma, hai scoperto delle curiosità veramente incredibili. Ma mi stavo chiedendo, in un paese come il nostro, in cui appunto, in quanto a abbigliamento made in Italy nel settore della sartoria ormai veramente possiamo raccontare il meglio in tutto il mondo, una ricostruzione storica di questo tipo non c'era in libreria? Ma Alessandro, guarda, ci sono alcune storie della moda, ma la mia non è una storia della moda, infatti si intitola Con stile, perché è una storia dello stile, e quindi c'è dentro un po' di tutto. Ci sono sì vestiti, ma poi c'è, si parla anche di cosmetica, il profumo, si parla di accessori, i cappelli. Esatto, si parla un po' di tutto ciò, si parla anche di tatuaggi, che è un'altra cosa che io ignoravo totalmente. No, ma infatti deriva, poi me la devi raccontare quella, perché c'è qualche cosa che racconta anche del santuario di Loreto, che è dalle mie parti. Assolutamente, che è dalle tue parti. Esatto, mi era anche preparata la domanda su questo, perché è una curiosità che mi volevo togliere. Peraltro in questa ricostruzione lì è partito proprio prendendo il corpo dall'alto, quindi parte dal cappello, e praticamente i capitoli che si susseguono raccontano scendendo gradualmente appunto nel fisico. Reggiseno, mutande, esatto, scarpe, calze, tacco senza tacco, imbottitura, liscia. Infatti è una miniera. I tacchi è divertente, perché fino al 500 non c'erano, poi alla fine del 500 hanno cominciato a pensare di mettere i tacchi, e non sapevano bene dove metterli, se metterli sul tallone oppure più verso il centro della scarpa, ed erano maschili soprattutto, ed ebbero un grandissimo uso, perché per esempio in Sicilia nel 700 usavano i tacchi tutti quanti, uomini e donne. Poi non c'erano distinzioni tra 6 e 700, non c'erano distinzioni tra scarpa destra e scarpa sinistra. sinistra. Per cui erano uguali per motivi di costo, no? Si cercava di ottimizzare la produzione, niente di nuovo anche qui. E quelle, se avete presente quei film in cui si vedono gli uomini del 600 che camminano ondeggiando, esatto, con il bastone così in maniera molto affettata, che sembra una ricostruzione filmica, in realtà era proprio così, perché con le scarpe uguali, ambidestre, non si riusciva a camminare bene, per cui si tendeva a camminare ondeggiando e bisognava avere un bastone. Ci sono delle foto nel libro in cui ci sono anche appunto delle belle immagini su reggiseni, comunque già a parte quelli di cartapesta, le imbottiture, perché in realtà ce n'era qualcuno anche molto carino. Parleremo di reggiseno, c'è anche una mostra di sulla biancheria intima a Londra. Noi oggi abbiamo viaggiato e quindi un po' la nostra curiosità è arrivata a questa mostra, sapendo anche che avremmo potuto parlare di biancheria intima anche con lei e con un nostro esperto, perché parleremo di reggiseno, non è solamente per soddisfare un bisogno naturalmente estetico. Il reggiseno va scelto con attenzione. Pensate che secondo i dati l'80% di noi donne sbaglia il modello di reggiseno, e quindi ci faremo dare anche qualche indicazione da un nostro esperto. Allora, invece, io ho curiosato nel libro, mi è arrivato l'altro giorno ancora bene bene nel dettaglio, non sono riuscita a leggerlo e quindi sono andata ovviamente avanti molto velocemente, ma non mi poteva non cadere l'occhio, pagina 79, dove ho trovato questo capoverso, questo paragrafetto che si intitola Donne e denari. Quindi cosa facevo? Lo lasciavo là? Andiamo, sentiamo. Tra il 6 e il 700 si afferma la moda femminile. Ora non sono più soltanto gli uomini a dettar legge nel campo dell'abbigliamento. Finalmente anche le donne vogliono dire la loro. Le tendenze di successo si irradiano da Parigi verso il resto d'Europa. Le corti non riescono più a imporre la propria moda. Ormai a dettare i costumi cominciano a essere le strade lungo le quali si passeggia guardando vetrine e occhieggiando gli annunci pubblicitari. Si acquistano non più soltanto beni necessari, ma anche carinerie, niceties. Nastri, coccarde, scatoline, ventagli, cappellini, guanti, orologi da taschino, fibbie per le scarpe. Un po' tutti seguono la moda, tuttavia solo pochi la dettano, gli strati alti della società. E poi da lì si diffonde a cascata, investendo per imitazione i livelli più bassi. La crescita dei consumi coinvolge larghe fasce di popolazione, non solo i più ricchi. Proprio nel Settecento nasce il consumismo, ovvero io sono quello che consumo. E a proposito di questo, peraltro, apprendiamo sempre da questo libro che prima dell'industrializzazione gli abiti costavano moltissimo e costava invece pochissimo la manodopera. I sarti praticamente non erano pagati quasi nulla, ma dovevano mettere in piedi dei veri capolavori dell'arte sartoriale che invece dilapidavano proprio il portafoglio di chi voleva vestirsi bene. Ne parliamo magari dopo, che cercheremo di capire anche il reggiseno quanto costava, chissà. Dopo il 3. Cuore e denari. London calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. Noi andiamo a Londra. Andiamo. Perché? L'inglese l'abbiamo imparato. Sappiamo tutto. O almeno un po' rinfrescato. Qualche consiglio per così controllare quella leggera ansia che tutti, no, con tutti ci confrontiamo quando saliamo in volo? L'abbiamo fatta con Alberto Pellai. Andiamo a vedere una mostra, perché parla di biancheria intima, e vorrei commentarla naturalmente anche con il nostro ospite Alessandro Marzomagno, autore di Con stile, come l'Italia vestito e svestito il mondo. Però non è italiana la donna che ha inventato il reggiseno, bensì francese, si dice. Sì, che fosse Cadol, c'è ancora adesso una marca che ha questo nome, poi c'è anche un'americana, perché invece il primo brevetto è americano nel 1914. Esatto, il 3 novembre del 14. Infatti, faccio un po' la maestrina, perché prima di venire mi sono appuntata le due cose. Cadol nel 1889 all'Esposizione Universale di Parigi aveva dato, una donna che aveva deciso di dare un'alternativa alle donne per buttare via i busti, no? E allora aveva preparato questo corsetto, sì, tagliato a metà. Sì, poi molto c'è, più comodo. Assolutamente, il busto doveva essere scomodissimo, soprattutto poi quei busti lì che erano appunto con le stecche, prima di metallo, poi di legno, poi di fanoni di balena. C'è anche una disputa, perché di recente, nel 2012, è stato trovato in Tirolo quel che si presume che sia il primo reggiseno di metà 400, però non era, anche se fosse stato un reggiseno, non si era diffuso, per cui insomma non c'è notizia di una generale diffusione di questo capo di abbigliamento. Sì, non è in italiano, ma è una cosa curiosa che adesso vorrei richiamare anche il libro della cucina, perché ho scoperto una sovrapposizione tra la moda e la gastronomia, cioè l'Italia detta legge sia nella moda sia nella gastronomia fino al 500. Poi nel 500 sia la moda sia la gastronomia escono dall'Italia, la moda passa per la Francia e per la Spagna, si affermano in Francia, la Francia diventa la capitale sia della cucina sia della moda fino al secondo dopoguerra. Nel secondo dopoguerra l'Italia torna e oggi l'industria italiana e la gastronomia italiana sono poi quelle che fanno, che dettano legge un po' in tutto il mondo. Per cui insomma abbiamo per esempio delle ditte di oggi di reggiseni che sono universalmente note, anche se l'invenzione non è stata italiana. Perché noi abbiamo una marcia in più, diciamolo. Il problema... Noi abbiamo lo stile. Lo stile. Ho intuito quello che sarà il tema del prossimo libro, perché ci troveremo un intreccio tra moda e cucina. Ci sono moltissimi intrecci, perché potremmo continuare anche con la finanza e con l'editoria, perché anche queste poi nascono libro, in Italia, nascono in Italia, escono dall'Italia, poi vabbè, la finanza non c'è tornata. No, infatti, non so se sia un bene o un male, però. Beh. Allora, non di stile, ma di salute, esatto, di utilità per il nostro benessere del reggiseno, parliamo con il prossimo ospite che è con noi il 25 aprile, il dottor Corrado Tinterri, direttore della Breast Unit dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno. Dottor Tinterri, non le chiediamo i modelli, ferretto, barchetta, col pizzo, la spallina incrociata, eccetera, perché non è naturalmente il suo campo, ma di commentare con noi un dato. L'80% delle donne sbaglia il modello del reggiseno. La domanda è, le conseguenze si pagano solamente a livello estetico o ci potrebbero essere nel breve o nel lungo periodo dei danni anche al seno? Ma dunque, chiariamo innanzitutto un tema che ha girato un po' sul web. Certo. Il reggiseno non c'è assolutamente nulla con il tumore al seno, quindi nonostante fossero usciti dei dati sul un parallelismo tra le donne indigene e le donne occidentali, nelle quali pareva alcuni ricercatori epidemiologi avevano un po' gettato questo sasso nello stagno, assolutamente questo è stato chiarito con uno studio dell'American Cancer Society del 2014 di Seattle, in cui ha proprio fatto uno studio specifico su questo tema, proprio per chiarire. Quindi cancro e reggiseno non c'è nessuna relazione. Assolutamente nessuna. C'è invece un tema che a volte può essere in qualche modo coinvolgente, che è quello che reggiseni troppo stretti o in particolare alcuni con dei materiali particolari possono creare una stasi linfatica. Che tradotto in parole semplici cosa significa? Vuol dire che c'è un gonfiore, un blocco dei collettori linfatici, quindi si gonfia un po' o l'ascella o i tessuti subito al di sopra del reggiseno, e questo può simulare in qualche modo una sindrome dolorosa, una sindrome demigeno di gonfiore, che è semplicemente dettata dal fatto che questo reggiseno è troppo stretto. Infatti questo può succedere soprattutto nelle taglie un pochino importanti che usano dei reggiseni abbastanza stretti, e quindi questo è assolutamente da evitare, perché questa stasi linfatica può portare poi a un rigonfiamento dei linfonodi ascellari, a una sindrome dolorosa. Insomma, dei dati che in qualche modo possono... Quindi scegliete la misura di coppa corretta, fatevi aiutare nel caso. Emilia ci chiede, ma il ferretto fa male? Dottor Tinterri, anche questa è una delle domande che ritorna. No, il ferretto non fa male, purché in qualche modo non stringa con un CRE in qualche modo, un traumatismo che certo può generare ovviamente un'infiammazione di tessuti. Dottor Tinterri, alcune domande che stanno arrivando via al 349-238-6666, così rispondiamo alle nostre ascoltatrici. Reggiseno di notte, è possibile tenerlo oppure bisogna la notte liberarsi di tutte queste costrizioni un pochino? Ma di notte si può tenere un reggiseno purché, ripeto, sia abbastanza comodo, in qualche modo non generi delle compressioni che possono diventare fastidiose, sempre sul tema che anticipavo prima. Quindi usare dei reggiseni in qualche modo abbastanza morbidi, elastici, morbidi, certo, e non con il ferretto nella notte, forse meglio. Allora, sì, reggiseno e attività sportiva. Ci sono, ecco, in commercio dei modelli sportiva, ad hoc, sì, ma dottore? Sì. Sono dei modelli appunto elastici che sono molto utili perché ovviamente durante lo sport c'è un traumatismo, una sollecitazione particolare, e quindi in questo caso ci sono dei prodotti adeguati che sono anche gli stessi che a volte noi usiamo nell'immediato post-operatorio perché hanno una azione contenitiva molto importante, quindi impediscono il traumatismo del movimento e quindi in qualche modo tengono più contenuto il seno, soprattutto, ripeto, o nel post-operatorio oppure durante l'attività sportiva in cui le sollecitazioni aumentano. Dottor Tinterri, prima di salutarla, lei è appena stata a Roma per la prima giornata nazionale sulla salute della donna, è sì, un'occasione in cui si è fatto un po' il punto della situazione sulla prevenzione al femminile. Sì, è stata veramente una giornata molto bella in cui la ministra ha voluto riunire un po' tutti gli addetti ai lavori, le donne, le associazioni, intorno a un tavolo, ed è uscito un manifesto proprio sulla medicina di genere, in modo particolare ovviamente prevenzione ma anche qualità delle cure. Quindi è stata una promessa che lei ha fatto per trasferire rapidamente nella pratica clinica di tutti i giorni una particolare attenzione alla salute delle donne. Credo ce ne sia bisogno. E noi naturalmente mettiamo a disposizione delle ascoltatrici di Cuore Denari i nostri esperti, per cui amiche all'ascolto scrivete a cuoredenari@radio24.it. Noi naturalmente coinvolgeremo il dottor Tinterri e la sua equipe, siamo pronte a darvi indicazioni e supporto. Grazie dottor Tinterri, grazie, ci torniamo presto. Arrivederci. Noi stiamo andando verso la chiusura di questa simpaticissima puntata del 25 aprile, abbiamo parlato di vacanze a lungo nella prima parte del programma. Alessandro Marzomagno, autore di Con Stile, come l'Italia ha vestito e svestito il mondo, legando il tuo libro al nostro tema di oggi che è stato appunto centrato sulle vacanze, dove ci consigli di andare per recuperare anche la memoria storica dello stile italiano in fatto di abbigliamento e modo di vestire? Non lo so, io vengo dalle Marche, là c'è un bel distretto delle calzature, andiamo nel distretto della seta, nella pelletteria in Toscana, dove andiamo a recuperare qualche cosa carina? Ma è difficile dire dove andiamo perché in Italia ci sono luoghi, esatto, legati alla moda un po' ovunque. Allora fatemi fare un po' il campanilista. C'è un bellissimo museo del tessuto e del costume a Venezia, Palazzo Mocenigo, dove appunto si vedono bellissimo esposti dei vestiti originali del Settecento, ma poi appunto si possono visitare tutti i vari poli produttivi. Sempre in Veneto, per esempio, forse vale la pena dirlo, a Montebelluna, per esempio, sì, è stato inventato lo scarpone da sci di plastica, e una sera io penso davanti a un bicchiere di prosecco si sono ritrovati un produttore di tapparelle, un produttore di scarponi, e invece di fare gli scarponi di cuoio li hanno fatti di plastica. Ecco, pensate cosa sono stati capaci di fare gli italiani. Avessero fatto le tapparelle di cuoio. Ecco, esatto. Grazie ad Alessandro Marzomagno per il suo bel libro, per la sua presenza. Lo reinviteremo naturalmente presto. A domani. A domani, buona giornata a tutti.